Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, vi porto all'AIMS, il centro di formazione in chirurgia mini-invasiva dell'ospedale Niguarda di Milano, stasera per parlare di un altro Milano, acronimo che è il nome infatti di un robot chirurgico sperimentale di concezione totalmente innovativa nato da un'intuizione del direttore dell'AIMS, Antonello Forgione. Come sapete, la chirurgia mini-invasiva o laparoscopia o chirurgia endoscopica è quella tecnica che permette di operare all'interno dell'addome praticando alcune incisioni, di solito di pochi millimetri, attraverso le quali vengono introdotti gli strumenti chirurgici. È una procedura che consente al paziente un recupero post-operatorio molto più rapido, ma che in realtà ha reso molto più complicata la vita per i chirurghi, per ragioni che Forgione adesso ci spiegherà e che hanno poi anche portato alla diffusione della prima generazione di robot chirurgici. Sentiamo. La chirurgia mini-invasiva, che offre grandi vantaggi ai pazienti, ovviamente ha introdotto purtroppo per i chirurghi delle limitazioni tecniche, per cui i chirurghi hanno perso la possibilità di articolare i propri strumenti all'interno dell'addome, hanno perso la visione tridimensionale che caratterizza il nostro modo di operare. Hanno pochi buchini, insomma, no? Da esatto. Cui si filano questi strumenti. E quindi il chirurgo, per offrire dei benefici al paziente, ha dovuto adeguarsi a dei limiti della tecnologia. La chirurgia robotica, che ormai è stata introdotta da circa 15 anni nell'ambito della chirurgia addominale, riporta il chirurgo ad una situazione a cui lui è più abituato, quindi articolazione degli strumenti, visione tridimensionale, ma soprattutto una stabilità ed una precisione che la mano umana, per quanto quella del miglior chirurgo possibile, non potrà mai replicare. Quindi i benefici in termini di dissezione delle strutture altamente importanti anatomiche viene assolutamente facilitata dall'ausilio del robot. Quindi diciamo, in teoria, migliore sicurezza, migliore precisione, soprattutto questo. Ecco, qui però parliamo di un robot assolutamente diverso da tutti i robot chirurgici che si sono visti finora in funzione e anche che apparentemente si stanno sviluppando in giro per il mondo. È un robot intanto piccolissimo. Descriviamo questo oggetto veramente straordinario. Beh, prima di tutto, con una nota di orgoglio e di piacere, ci tengo a sottolineare che il Milano Robot è un'idea tutta italiana, nata all'interno del centro AIMS di cui abbiamo accennato precedentemente e che un po' caratterizza la creatività degli italiani. Perché? Perché noi ci siamo dati come obiettivo quello di offrire gli stessi vantaggi della chirurgia robotica attuale, eliminando però tutte le limitazioni delle macchine attuali, che sono in particolare caratterizzate da un importante ingombro. Pensi che per introdurre gli attuali robot, le sale operatorie devono essere adattate alla macchina, quindi sono dei robot che non riescono ad entrare in tutte le sale operatorie. Pesano più di mezza tonnellata, occupano una stanza praticamente. Esattamente, hanno bisogno di personale dedicato che sappia utilizzare la macchina, che sappia muoversi intorno a questa macchina, quindi c'è anche una curva di apprendimento molto lunga per tutte le equip. Ecco, ma descriviamo questo oggetto che ha delle caratteristiche appunto uniche. Il Milano Robot è caratterizzato dal fatto di essere una tecnologia assolutamente portatile, mini-invasiva nel vero senso della parola, perché riesce ad entrare all'interno del corpo umano attraverso una singola piccola incisione o addirittura in una sua evoluzione potrà essere introdotta attraverso un orifizio naturale, quindi offrendo al paziente la possibilità di non avere alcuna cicatrice visibile al termine della procedura. Questa è assolutamente l'ultimissima frontiera della chirurgia prima della paranoterapia. E quindi e quindi da questo punto di vista la nostra soluzione tecnologica apre davvero una frontiera che consentirà di eseguire la chirurgia per i prossimi anni a venire. Allora, spieghiamolo bene. In questo caso non sono gli strumenti del robot che entrano nella pancia, diciamo così, del paziente, è il robot che entra nella pancia del paziente, è una specie di transformer, poi cambia forma quando si trova all'interno della pancia del paziente, tira fuori strumenti di vario tipo. E questo quanto pesa? Certo, nella sua versione definitiva meno di 3 kg. Contro? Gli attuali 700 chili di un robot chirurgico normale. Quindi un oggetto piccolissimo, trasportabile. E ha un'altra caratteristica unica, che è quello che cambia da solo gli strumenti. Ci spieghi? Esattamente. Attualmente tutti i sistemi cosiddetti robotici possiamo più appropriatamente definirli dei telemanipolatori, perché sono strumenti che non hanno nessuna funzione automatica. La nostra soluzione tecnologica si caratterizza per il fatto che questa è la prima macchina al mondo che sarà capace di sostituire i propri strumenti autonomamente, senza il bisogno di avere un essere umano che serva la macchina. E tutto questo avverrà sempre dentro nell'addome del paziente. Sì, assolutamente. Sembra fantascienza, ma in effetti se coloro che sono interessati verranno qui presso la nostra struttura potranno vedere la macchina in funzione. Dunque, a che punto siete dello sviluppo di questo robot? A che cosa vi serve per andare avanti? La tecnologia che abbiamo sviluppato attualmente è a livello di un prototipo funzionante a livello di laboratorio. Ovviamente la macchina ha bisogno di una reingegnerizzazione per essere totalmente compatibile con quelle che sono le procedure chirurgiche. Una nota prima di salutarci. Il progetto Milano ha ricevuto ad oggi un finanziamento di oltre 1 milione di euro dallo Stato israeliano e ora è in cerca di altri investitori. La speranza è che qualcuno anche nel nostro paese, pubblico ma anche privato, si faccia sotto. Con questo augurio ci salutiamo, ci diamo appuntamento. A domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.